Mezzogiorno di Simone Spezia. Dopo l'appello a Mattarella, DJ Fabo, tetraplegico dopo un incidente, sceglie la Svizzera per morire. Si riapre il dibattito sul suicidio assistito. Nota degli Oscar con gaffe, viene dato per vincente La La Land, ma in realtà è Moonlight, molta politica nella cerimonia di premiazione. Renzi si vota nel 2018, ma decide Gentiloni, protesta di 5 Stelle, scontro sulle pensioni ai parlamentari. Dopo i casi di assenteismo protestano i precari davanti all'ospedale Loreto a Mare di Napoli. Assumete noi, dicono. Polemiche sugli arbitri, all'indomani della giornata di campionato, Roma che resta in scia alla Juventus dopo la vittoria con l'Inter. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati dunque a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Buon inizio di settimana, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp che leggeremo nel corso della puntata, e anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e anche l'email effettogiorno@radio24.it, quindi tanti modi per contattarci. Iniziamo dunque dalla vicenda di DJ Fabo. I servizi. Se n'è andato alle 11:40 DJ Fabo. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un paese che non è il suo. Così Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni ha annunciato la morte di Fabiano Antoniani. Era stato proprio Cappato ad accompagnare il 39enne in Svizzera in una clinica dove poter fare ricorso al suicidio assistito. Vittima di un grave incidente stradale nell'estate del 2014, Fabo era cieco e tetraplegico e dopo aver tentato invano delle cure aveva deciso di ricorrere all'eutanasia. Con le mie forze e non con l'aiuto del mio Stato. Questa mattina il suo ultimo messaggio audio via Twitter, in cui Fabo spiegava di essere arrivato in Svizzera con le sue forze e non con l'aiuto dello Stato, e ringraziava proprio Cappato per averlo sollevato da questo inferno di dolore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia non vi sono leggi che regolano testamento biologico ed eutanasia, ma il 3 marzo 2016, per la prima volta nella storia del Parlamento italiano, venne avviato il dibattito sulla dolce morte, un dibattito che si è fermato dopo una sola seduta, da allora tutto fermo nelle commissioni giustizia affari costituzionali della Camera, mentre sta procedendo in modo più spedito l'approvazione del DDL sulle disposizioni anticipate di trattamento o biotestamento, che ha avuto il primo via libera dalla commissione affari sociali della Camera il 17 febbraio. Pur con forti polemiche da parte del fronte trasversale dei deputati cattolici. Sono proprio loro ad equiparare alcuni aspetti del biotestamento ad una forma di eutanasia, anche se in realtà il testo si propone di regolare un aspetto del fine vita che riguarda le proprie volontà circa le cure mediche. Cosa diversa sono infatti le 6 proposte di legge sull'eutanasia che dovrebbero costituire un futuro testo unificato, 5 di iniziativa parlamentare, una di iniziativa popolare depositata attraverso l'associazione Luca Coscioni. Quest'ultima prevede che per aver diritto all'eutanasia la richiesta provenga da un paziente maggiorenne affetto da malattia che provoca gravi sofferenze e inguaribile e che non si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Cambiamo decisamente argomento, innanzitutto aggiornandovi sulle indicazioni che stanno arrivando proprio in questi minuti dalla relazione annuale dell'intelligence degli 007 inviata oggi al Parlamento, che parla di pronunciata esposizione dell'Italia alle sfide rappresentate dal terrorismo jihadista. È sempre più concreto il rischio che alcuni soggetti radicalizzati in casa decidano di non partire verso Siria ed Iraq, determinandosi a compiere il jihad direttamente in territorio italiano, scrive l'intelligence. Verso l'Italia aggiunge c'è un'incessante ondata migratoria e l'ingente afflusso di migranti in un lasso di tempo breve può stressare le comunità straniere presenti nel nostro paese, determinando il rischio di possibili derive appunto criminogene ed islamico radicali. Questa la relazione che sta arrivando in questi minuti, i dettagli stanno arrivando in questi minuti, dell'intelligence italiana. Ci occupiamo invece adesso di liti fiscali, perché sono stati diffusi dei dati oggi mentre si sta pensando a una sorta di sanatoria, di rottamazione. Sentiamo. Un macigno di 50.000 liti arretrate con il fisco pesa sulla Cassazione, un'emergenza che spinge il governo a valutarne la rottamazione. A lanciare l'allarme il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio. Le liti sono a volte di scarsissimo valore, dice in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, e per evitare la deriva di una Cassazione civile che diventi solo tributaria serve un intervento. La risposta del governo arriva a stretto giro. Per l'abbattimento dell'arretrato, annuncia il viceministro all'economia Luigi Casero, si sta valutando la rottamazione. rottamazione delle liti pendenti sulla base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali. La rottamazione potrebbe interessare il contenzioso pendente in tutti i gradi di giudizio, non solo in Cassazione, dice Casero. Mentre per l'arretrato della Cassazione si sta anche valutando l'istituzione di una sezione tributaria bis. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica, soprattutto con le vicende del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, mi scuso intanto per il tono di voce perché ho avuto un calo di voce. Parliamo però del PD, la colpa della scissione nel PD è di Massimo D'Alema, questo l'attacco del segretario dimissionario Matteo Renzi alla sua prima apparizione TV da Fabio Fazio, una scissione scritta e ideata dall'ex premier che prima ha posto la condizione di congresso scissione e poi, dice Renzi, ha deciso lo stesso di uscire. Dopo il referendum è tornata la prima repubblica, tutti si scindono nei partitini. Sulle elezioni Renzi rassicura il premier Gentiloni, il voto previsto nel 2018, ma se lui vuole anche prima. Le inchieste che coinvolgono il padre. Renzi dice: io sto con i magistrati, ma i processi devono essere rapidi. Gli replica poi invece il governatore toscano Enrico Rossi, che da democratici e progressisti lo definisce arrogante, come un leader ossessionato da D'Alema. Rossi poi assicura che dietro il nuovo movimento non c'è un burattino e che la nuova offerta fermerà il Movimento 5 Stelle. Se alle primarie nel PD dovesse vincere Orlando, allora l'alleanza con i Dem sarà più facile. Mentre c'è un attacco del presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, magistrato eletta nel PD ma non iscritta, contro l'altro candidato alla segreteria Dem, Michele Emiliano, che dice deve scegliere se il partito la toga. La legge vieta che un magistrato sia iscritto ad un partito. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo punto sull'aggiornamento della politica. Veniamo alle vicende dell'ospedale di Loreto a Mare. Vi abbiamo raccontato venerdì della maxi inchiesta contro l'assenteismo con 55 persone agli arresti e 94 indagati. Oggi la protesta dei precari. Sentiamo. Dopo il blitz della scorsa settimana, oggi protestano davanti all'ospedale Loreto Mare gli aderenti al movimento infermieri campani e professioni sanitarie. Chiedono l'allontanamento dei furbetti del cartellino, cioè dei soggetti coinvolti nell'inchiesta della Procura di Napoli, che conta al momento 94 indagati, tra medici, infermieri, operatori sanitari e amministrativi. Per 55 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per 50 di questi l'obbligo di andare al lavoro. Siamo vincitori di concorso e precari, dice una delle manifestanti, mentre qui c'è chi ha lavoro ma è assenteista. Chi protesta chiede sostanzialmente il licenziamento per gli indagati. Il Codacons ha annunciato che si costituirà in qualità di parte lesa. Oggi il GIP interrogherà altri destinatari delle ordinanze e c'è chi sembra intenzionato a parlare e rendere dichiarazioni, a fare denunce, a differenza di altri che hanno già scelto di non rispondere e restare in silenzio. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E di questa vicenda torneremo a parlare più avanti. Come già vi abbiamo raccontato venerdì scorso, ci sono anche dei sindacalisti dell'ospedale Loreto Mare tra gli indagati per questa vicenda di assenteismo, e proprio con un sindacalista che parleremo tra poco. Siamo alla notte degli Oscar. Un Oscar che rimarrà nella storia per un clamoroso errore finale sulla statuetta più importante, quella alla regia. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. A causa di una busta sbagliata consegnata a Warren Beatty, l'Oscar per il miglior film è stato assegnato inizialmente a La La Land, ma in realtà era per Moonlight. I produttori di La La Land avevano anche iniziato il discorso di ringraziamento, poi la clamorosa smentita. E così a La La Land sono andate 6 statuette. Miglior attrice protagonista Emma Stone, miglior regia Damien Chazelle, il regista premio Oscar più giovane della storia, miglior fotografia, colonna sonora, canzone con City of Stars, scenografia. Miglior attore protagonista Casey Affleck per Manchester by the Sea, miglior attrice non protagonista Viola Davis per Barriere, miglior attore non protagonista Mahershala Ali, seconda statuetta per Moonlight, la terza per la sceneggiatura non originale. Non ce l'ha fatta Fuoco a mare, miglior documentario O.J. Made in America. Per l'Italia, miglior make-up and hairstyling, cioè trucco e parrucco, di Suicide Squad, Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini insieme a Christopher Nolan. Alessandro Bertolazzi che ha ringraziato così. I'm an immigrant, I come from Italy, and this is for all the immigrants. Io sono italiano, questo Oscar è per tutti gli immigrati. Messaggi contro la chiusura all'immigrazione anche da Gael García Bernal, da Rich Moore, uno dei tre registi di Zootopia, oltre alle battute sarcastiche dirette a Donald Trump del conduttore Jimmy Kimmel, che ha mandato in diretta due tweet al presidente. Unico attacco duro e frontale dal regista iraniano Asghar Farhadi, premiato per la seconda volta con l'Oscar per il miglior film straniero per Il cliente. Ha disertato la cerimonia per protesta affidando il suo J'accuse a un astronauta del suo paese. My absence is out of respect for the people of my country. La mia assenza è un atto di rispetto verso i miei concittadini e quelli di altri sei paesi che hanno subito una mancanza di rispetto per una legge disumana. Dividere il mondo in due categorie, noi e i nostri nemici, crea paura, una giustificazione ingannevole per l'aggressione e la guerra. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E visto che stiamo parlando di cinema, parliamo di fiction televisive, di un appuntamento molto atteso dal pubblico italiano. Questa sera torna Montalbano con nuove puntate. Sentiamo. Eccolo qua, immutabile ma sempre nuovo. Dopo 18 anni, 30 episodi, milioni di spettatori, il commissario Montalbano torna a regalarci delle certezze. Ne abbiamo bisogno. Con lui si va sul sicuro, come con il Festival di Sanremo o come quei film tipo Pretty Woman che per qualche strana magia vengono rivisti all'infinito. Con due nuovi episodi, Il covo di vipere e Come voleva la prassi, la creatura di Camilleri incarnata da Luca Zingaretti ci mette tutti d'accordo. In questo paese, dove si sa scindersi un attimo, Montalbano ottiene il miracolo di piacere a tutti, uomini, donne, perfino ai bambini, attirati dalle stravaganze della gente catarella o dalle gag con il fido Fazio. Chissà cosa c'è dietro a questo miracolo che ha fatto vendere la serie in 60 paesi. La casa del commissario, a Marinella nella fiction, a Punta Secca nella realtà, è meta di un incessante pellegrinaggio per poter vedere il mare dalla sua veranda, un boom di turisti. Montalbano piace perché sai che di lui ti puoi fidare, che è un uomo integro, come racconta Zingaretti. Non si compra perché non è in vendita. Ecco, anche questa è una cosa che era un po' più una caratteristica dei nostri nonni e quindi a noi non può che farci innamorare del personaggio. Proprio vero, di gente così non se ne trova più. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura di questa prima parte andiamo come sempre a parlare di sport e come sempre l'ormai appuntamento consueto con il nostro Dario Ricci per fare il punto sul fine settimana sportivo. Ciao Dario, bentornato. Ciao, ben ritrovato Simone. Eccoci qua. Andiamo pure noi gli Oscar, la miglior regia quella di Daniele De Rossi ieri a San Siro con l'Inter. Miglior attore Nainggolan. Nainggolan direi. Oddio, miglior attore pure Bacca perché con quel rigore, con i due tocchi, insomma ha tratto un po' veramente capolavoro di finzione anche in TV. È difficile poi individuarlo. Miglior attrice protagonista direi questa Atalanta straordinaria, chissà davvero, adesso ci chiediamo se arriverà in fondo, perché adesso è quarta da sola, quota 51, inseguita dalla Lazio a quota 50, poi c'è il Napoli 54 punti, la Roma 59, la Juventus 66, la Roma di fatto ancora ci regala un campionato perché sono 7 punti di distacco dalla Juventus, un distacco enorme, ma c'è lo scontro diretto alla terzultima. Però questo è il momento di vedere il calendario, no? Sabato alle ore 15 c'è Roma-Napoli, quindi altro scontro diretto importantissimo che si inserisce nel trittico che vede il Napoli domani sera a Torino contro la Juventus nell'andata di Coppa Italia. Mercoledì c'è il derby della capitale, quindi inventati una scusa buona, se no magari i tuoi figli non te lo fanno vedere per cose varie. Però insomma siamo nel momento chiave della stagione, senza ombra di dubbio qualcuno scherza qua. Nainggolan La Land non è malaccio, non è malaccio come battuto, un ascoltatore ci scrive via WhatsApp. Dario, lo sci, finiti i mondiali, ricomincia la Coppa del Mondo e ricominciamo a vincere. Sì, è vero, evidentemente questo per quanto riguarda lo sci alpino, perché tra l'altro nello sci di fondo stanno arrivando delle medaglie, anche ieri sempre Neukler Pellegrino argento nella prova sprint a squadre dopo l'oro di Pellegrino nell'individuale uguale. Sì, è vero, probabilmente, tra l'altro, stagione straordinaria, Peter Phil che vince il Super G a lungo inseguito a Kvitfjell, la Brignone seconda nella combinata, peccato perché a St. Moritz, probabilmente condizioni anche specifiche, no? di pista, di neve, di adattamento a quel determinato pendio, ci hanno fatto tornare a casa semplicemente con un bronzo. Però è vero, assolutamente è stata quella settimana da cancellare in una stagione invece da incorniciare. E grazie al nostro Dario Ricci di Sport, ovviamente torneremo a parlare a partire dalle 14 in tutti i convocati. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E iniziamo di nuovo da Napoli, dall'ospedale Loreto a Mare per la vicenda degli assenteisti. Ci occuperemo anche della questione dei disabili in Sicilia e andremo a Giarre, dove negli ultimi 2 anni sono cresciuti del 3.500%. Chissà come mai, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della vicenda di DJ Fabo, tetraplegico e cieco dopo un incidente che ha scelto la Svizzera per andare a morire, e ha riaperto di fatto il dibattito sul suicidio assistito e l'eutanasia. Ci siamo occupati di politica con quello che succede all'interno del Partito Democratico e Renzi che dice si vota nel 2018. Abbiamo parlato della notte degli Oscar con la gaffa, viene dato per vincente La La Land, ma in realtà il vincitore è Moonlight. E ci siamo occupati anche di calcio e, come avete sentito, di sci. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Napoli, ancora una volta da questo ospedale, l'ospedale Loreto Mare, dove c'è stata questa maxi inchiesta sull'assenteismo, 55 persone agli arresti, 94 indagati. Qualche ascoltatore continua a chiederci: ma perché non sono stati licenziati subito? La legge prevede e i decreti attuativi sono stati varati non più tardi di 10 giorni fa, la legge prevede entro 48 ore la sospensione e dentro un mese eventualmente il licenziamento. Saluto Rosario Cerullo, che è coordinatore dell'ASL Napoli 1, centro per la CGL Napoli, apparato sanità pubblica. Buongiorno Cerullo, eccoci. Buongiorno. Ma ci sono anche dei sindacalisti tra gli indagati? Notizia di ufficiale di qualche ora fa, direttamente dall'ufficio delle azioni sindacali, però di certo non ci sta nessun appartenente alla sigla sindacale CGL come in qualità di dirigente sindacale. Non c'è nessuno dei vostri, ci sta dicendo? No. Da quello che vi risulta al momento, o è accertata questa cosa? No, accertata. Sì. Ci sono storie incredibili qua in mezzo, tra l'altro c'è un'intervista alla Repubblica a Tommaso Ricozzi, detto Tommy, un dottore, un medico, 60enne, dirigente medico della radiologia dell'ospedale Loreto a Mare, che è diventato un po' l'icona di tutto questo, perché era quello che andava a giocare a tennis durante quello che dovrebbe essere l'orario di lavoro. È una vicenda, francamente Cerullo, che troviamo incredibile. C'erano anche medici che condividevano status su Facebook contro i tagli alla sanità e contemporaneamente però li facevano per fatti loro i tagli alla sanità. Si vive un momento di difficoltà in questo momento presso quel posto di lavoro, ossia l'ospedale Loreto Mare. La CGL di fatti prende le distanze in caso in cui i lavoratori siano giudicati colpevoli e succedesse presto, però di tutti i 94 bisogna dire che ci sarà una buona parte che qualche lavoratore che sarà andato a spostare la macchina sarà in quel momento là. Non tutti sono assenteisti. È probabile che non lo siano tutti, quei 55 sospesi, certamente le autorità giudiziarie hanno ritenuto in base a prove evidenti, questo è sicuro. Una cosa mi sento dire è che comunque già si vive un momento di difficoltà in sanità. soprattutto a Napoli. Soprattutto a Napoli. Poi se la gente, mi scusi Cerullo, se la gente non lavora per forza e si vive un momento di difficoltà. Questo sì, però un invito che faccio all'utenza è di non fare tutta un'erba un fascio come è solito farsi, perché la sanità già di per sé nell'occhio del ciclone, però penso pure a quei lavoratori che comunque di fatti lavorano in modo impeccabile, dando la loro professionalità sul campo. Sì, questo non c'è dubbio. Cerullo, senta, però mi permetta di coinvolgerla in una cosa. Non è che qua c'è anche qualche copertura più o meno nascosta da parte del sindacato? Io questo glielo devo chiedere, perché poi alla fine si tratta nel momento nel quale becchi nel quale becchi il collega assenteista e magari, come dire, fai parte di un sindacato, ti perdi un iscritto, no? Vi posso rispondere in modo così: il sindacato è sui generis, poi fanno le persone, fanno il sindacato, cioè il sindacato poi dopo cammina sulle gambe delle persone, e poi ognuno di noi ne risponde secondo coscienza, però quello che mi sento di dire è che il sindacato è una forma astratta. Poi sono le persone che poi fanno il sindacato su ogni posto di lavoro. Sì, ma io sto parlando infatti delle persone che concretamente stavano là dentro, nel senso che per me è impossibile che per me è impossibile che uno non veda quello che succede. Cioè, se c'è uno che timbra i cartellini per 20 persone, è impossibile che non lo si sappia. Cioè, è impossibile che una persona che lavora all'interno dell'ospedale non lo veda, no? Capisce? E quindi, come dico, quello che dico, anche se non ci sono vostri sindacalisti collegati a voi o della CGIL coinvolti direttamente nell'indagine, certo qualche perplessità di fronte ad un sistema nel quale forse un filo di omertà c'è, noi ce l'abbiamo da questa parte della barricata, per così dire, no? Questo sì, il filo di omertà c'è in ogni occasione, in ogni momento, perché Napoli in buona sostanza si vive di omertà. Penso agli atti criminali che vengono fatti ogni giorno e di cui cittadini, utenti non fanno denuncia e non si adoperano verso le istituzioni. Quindi mo bisogna vedere se i cittadini utenti non hanno fiducia nelle istituzioni, quindi andiamo in ragionamento abbastanza grande. Su un ragionamento abbastanza piccolo e molto concreto. Voglio riprendere un attimo le parole sue che ha detto all'inizio in merito alla sospensione e al licenziamento. La legge Madia è entrata in vigore nell'anno 2017, febbraio. Questi atti sono stati ingiusti, sono stati fatti 2014-2015, quindi e la legge Madia sembra che non sia retroattiva. E quindi non sono licenziabili? Sospensi, secondo gli atti di legge non dovrebbero essere licenziabili, sicuramente di sospensione. Cerullo, mi dica solo una cosa. Se venisse provato che questi sono tra gli assenteisti, si volesse pensare al licenziamento, voi li difenderete o sosterrete il licenziamento? No, perché abbiamo già preso le distanze con una nota della CGIL Campania e provinciale. Quindi non gli metterete a disposizione gli avvocati? Cioè, vi fossero dei vostri iscritti, non gli metterete a disposizione gli avvocati? Se sono condannati, no. Al dire no, mi scusi, stiamo parlando della parte del giudizio. Gli metterete a disposizione i vostri avvocati oppure no? No. A nessuno, nemmeno degli indagati? No. La ringrazio. Allora, se le autorità giudiziarie ritengono che siano stati colpevoli per assenteismo e roba, la CGIL prende le distanze, le dovute distanze. E quindi se ci fossero degli... Mi scusi, la domanda è semplice. Allora, ci sono degli indagati. Ci sarà un processo, un giudizio. Prima dovranno passare attraverso il GIP, eccetera, tutto quello che sappiamo. Sì. In questa fase gli metterete ai vostri iscritti a disposizione gli avvocati vostri oppure no? Se lo pagano da soli. Questo volevo sapere. Grazie Rosario Cerullo per essere stato con noi, coordinatore ASL Napoli 1 Centro CGIL Napoli Apparato Sanità. E c'è una vicenda che ci ha incuriosito, che arriva invece dal nord-est. Siamo a Verona o in provincia di Verona, dove un uomo ipovedente e invalido al 100% guidava un furgone e consegnava le pizze. Che è successo? Che è andato a processo e il giudice lo ha assolto. La truffa non c'è. Massimo Martini è il suo avvocato. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Ma com'è stato possibile? Diciamo che il tema d'indagine si fonda proprio su questa verifica, no, della guida da parte del mio cliente, e poi emerso, ha poi permeato tutto il processo, ma alla fine la relazione tra questo contributo economico che viene elargito dall'INPS, che è tuttora elargito dall'INPS, e la condotta di guida è stata giudicata, in accoglimento della tesi difensiva, giuridicamente irrilevante. Mm. E le spiego perché. Il giudizio è stato fornito in questo senso dagli stessi medici dell'INPS, ben sei sono comparsi nel procedimento, che riconobbero l'invalidità ordinaria, poi le dico cos'è, al cliente, sì, che la confermarono l'anno successivo, vale a dire nel 2010 e nel 2012, perché l'invalidità ordinaria è un trattamento economico che si ha quando la patologia, che deve chiaramente esserci, incide, va ad incidere sulla capacità lavorativa specifica, semispecifica, sulla capacità lavorativa del soggetto rispetto alle cosiddette attività confacenti. Sì. Allora, cosa sono le attività confacenti? Le attività confacenti, per una persona come il mio cliente, ultra cinquantenne, che da una vita svolgeva una certa professione, era proprio quella. Ok, quindi l'attività confacente era quel lavoro, e quindi lui era sostanzialmente inabile a fare quel lavoro specifico? Una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 in quell'attività che era la responsabilità della manutenzione elettrica di una acciaieria, non di una manovalanza. Quindi è stato accertato che questa patologia esistente, chiaramente sopravvenuta per un effetto, per un evento traumatico, aveva determinato un calo significativo del visus, aveva determinato uno scotoma centrale, cioè il cliente vede solo in maniera periferica, d'accordo? E guidava un furgone, scusi. Guidava un furgone, però... Lei capisce, no? Cioè mi dice, aveva solo la vista periferica. Perfetto. E guidava un furgone. Perfetto, la domanda è stata posta dagli stessi medici ed è stata giudicata irrilevante. Perché? Perché l'attività confacente non era quella della guida di un pullman o di un autocarro, cioè questo non faceva l'autista, faceva il manutentore. Di conseguenza, anche se egli guidava con evidente, chiaramente sarà evidente difficoltà, questo furgone come ipovedente e non come cieco assoluto o presunto tale, la questione non assumeva nessuna rilevanza. L'hanno confermata e l'avrebbero confermata. Guardi Martini, io la fermo perché questo paese è incredibile. Qua mi chiedono di chiederle e io non lo farò, perché è un avvocato e quindi è il suo cliente. Mi dicono cosa ne pensa di una cosa di questo genere, non come avvocato ma come uomo, mi dicono gli ascoltatori. Non glielo posso chiedere, posso un avvocato. Darle, ma io le do una risposta. Sì. Io chiaramente come avvocato non fornisco nessuna risposta, ma io rifletterei eventualmente su, ed è una questione di ordine generale, sulla comunicazione tra gli apparati della PA. Ah, beh, su quello non c'è il minimo dubbio. Hai capito? Sì, assolutamente. Io per esempio, anche con la motorizzazione civile, tanto per fare. Diciamoci. Va bene, grazie Massimo Martini, avvocato, per essere stato con noi. Tra un attimo ci ritroviamo. Un'altra vicenda di quelle italiane incredibili. Se avremo il tempo, perché come sapete la puntata del lunedì è più corta, andremo andare a Giarre, dove il numero di disabili. In Sicilia negli ultimi 2 anni il numero di disabili è aumentato del 140%. Chissà come mai. A Giarre più 3.500%. Dovremmo parlare col sindaco di Giarre, naturalmente, se abbiamo il tempo, e cercheremo di capire perché. Perché intorno a questo sta montando una polemica e un'inchiesta della regione. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: dopo l'appello a Mattarella, DJ Fabo, tetraplegico e cieco dopo un incidente, sceglie la Svizzera per andare a morire. Si riapre il dibattito sul suicidio assistito. Arriva un nuovo allarme degli 007 italiani per l'Italia. Il rischio terrorismo è sempre più concreto. L'ondata incessante di migranti può portare al rischio di derive radicali. Nota degli Oscar con gaffe viene dato per vincente La La Land, ma in realtà è Moonlight, molta politica nella cerimonia di premiazione. Renzi dice si vota nel 2018, ma decide Gentiloni, protesta dei 5 Stelle, scontro sulle pensioni ai parlamentari. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia ci porta adesso in Sicilia, dove la regione ha deciso di avviare un'indagine. Avviare un'indagine per cosa? Per l'aumento di disabili gravi, che sono raddoppiati nel giro degli ultimi 2 anni, un più 130%. Difficilmente attribuibili questi numeri a un effettivo aumento appunto dei disabili gravi e più probabilmente a qualcos'altro. Andiamo a Giarre, nel Catanese, dove in 2 anni i casi sono aumentati del 3.500%. Chiaro che non parliamo di numeri enormi, parliamo di un passaggio da 2 a 75 persone. Angelo Danna, il sindaco di Giarre, buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, la regione ha deciso di avviare un'indagine, il ministro Lorenzini ha detto siamo con voi, vedremo che cosa, come mai avviene tutto questo, e lei come se lo spiega? Ma io me lo spiego un po' leggendo quelle che sono le carte. Nel 2014 l'assessorato alla famiglia della regione emana una direttiva dove indica quali devono essere i disabili gravissimi che devono essere eventualmente supportati con delle iniziative assistenziali presso il loro domicilio. Questa interpretazione chiaramente ha portato nel nostro caso alla presentazione di 81 domande, di cui in prima battuta ne vengono accettate 4 e poi per motivi vari soltanto 2 vengono in qualche modo gestite. Chiaramente l'applicazione di questa norma evidentemente non molto chiara nei criteri o troppo, come dire, interpretabile, suscettibile di interpretazione, ha portato diverse interpretazioni nei vari distretti della Sicilia, per cui ci sono state situazioni difformi, tant'è vero che lo stesso assessorato alla sanità, l'assessorato alla famiglia della regione, da lì a qualche anno dà delle interpretazioni un po' più chiare, indicando addirittura quali sono le patologie che debbono essere ricollegate a questo caso, ed ecco che delle nostre 81 domande, che nel frattempo erano lievitate a circa 142, ne vengono accettate 50 nel 2015, 72 sono i casi nel 2016. Sulla base Danna, dunque, di queste nuove direttive, quindi in sostanza questo avvio di verifica, avvio di indagine della Regione Sicilia, è un avvio di indagine su se stessa, cioè su un suo stesso atto? Io direi, purtroppo devo dirle proprio di sì, premesso che chiaramente quando parliamo di questi casi, parliamo nel nostro caso, ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, 72 casi su circa 90.000 persone, quindi parliamo veramente di numeri comunque di grande esiguità. Poi certo, pensate un po', ci rientrano situazioni di demenza molto grave, oppure persone affette da SLA, persone affette da molteplici patologie che ne impediscono sostanzialmente una vita autonoma. In che cosa consistono quello di cui parliamo? Cioè diamo la possibilità, mandando degli operatori presso i loro domicili, ad aiutarli sia da un punto di vista igienico personale sia da un punto di vista di aiutare un po' la famiglia a sostenere queste situazioni. Sono quindi in linea di principio la direttiva, il principio è corretto, perché noi vediamo certo, che molte situazioni del genere non vanno né in ospedale né nelle cliniche. Però chiaramente quello che dispiace è, al solito, aver dato, come dire, da parte, mi permetto di dire, del massimo rappresentante della nostra regione, aver parlato di scandali, di situazioni del genere, purtroppo senza andare a leggere, mi permetto di dire, quelle normative che io, sindaco da 8 mesi... Ha detto anche Sicilia canaglia, se non sbaglio, no Crocetta? Ma io credo che bisogna invece su queste cose riflettere. Questo presidente, mi dispiace, approfitto, ecco la mia realtà, quando parliamo di Giarre parliamo del distretto di Giarre, sono 10 comuni. Abbiamo 5 secondi, Dan. No, le dico subito, noi abbiamo avuto l'unica realtà in Sicilia, nonostante i parametri di legge avessimo diritto a un ospedale e a un pronto soccorso, sappiate che questo ospedale e pronto soccorso a Giarre è stato chiuso. Io spero che la regione sia molto più attenta nell'applicare le norme. A queste cose. La devo salutare. Grazie Angelo Danna, sindaco di Giarre. Avrei parlato più a lungo con lei, ma dobbiamo dare la linea a Mario Platero e poi ci risentiamo alla fine per i saluti.